Quanti sono felici che il Natale sta arrivando? Abbiamo i pacchi con le lucine e poi abbiamo qui i portali tutti illuminati. Io sono felice che sia Natale e sono anche un po' triste perché oggi è l'ultima domenica in cui potremo incontrare Gesù nell'affrontare il tema di questo 2025, che è come te. Perché da domenica prossima festeggeremo il Natale insieme. E quindi oggi è un po' l'epilogo. Oggi dobbiamo tirare le somme. Dobbiamo sottolineare, mettere un punto ed essere pronti per il 2026. Che sta arrivando. Era l'anno scorso che eravamo seduti qua e il pastore ci ha parlato che avremmo vissuto un anno come te per sfidarci ad essere come Gesù ed è volato. È vero? Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore. Salmo 139, Davide così conclude. Mettimi alla prova, conosci i miei pensieri. Sapete, è incredibile come per quanti di noi abbiamo già letto il Salmo 139, sappiamo benissimo che il Salmo 139 inizia dove Davide dice, Signore, tu mi conosci. No, puoi lasciarlo, Maria Grazia. Signore, tu mi conosci. Quindi Davide sapeva che Dio lo conosceva, eppure conclude quello che era il canto che gli stava dedicando, dicendo, conoscimi. Investigami, mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, vedi cosa c'è in me. C'è qualche via iniqua e guidami per la via dell'eternità. Il titolo del messaggio di questa mattina è Nel suo timore, capitolo finale. Oggi è la stagione finale, abbiamo finito. E sapete, a un certo punto l'Apostolo Paolo scriverà a noi italiani che vivevamo a Roma, nella lettera ai Romani, e dirà una cosa fondamentale, molto importante al capitolo 3, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione in Cristo Gesù. Perché sono giustificati per la grazia? Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Che cosa significa questo? Significa che Gesù ha preso la retribuzione del tuo peccato. Gesù ha preso il tuo e il mio salario, che corrisponde alla retribuzione del nostro comportamento contrario alla volontà di Dio, ed è morto. Ha preso il tuo salario ed è morto. Sulla croce si è sacrificato. Perché il salario del peccato è la morte. E quindi l'ha tolta da noi e se l'è presa lui. E ha scelto di morire. Questo significa che Gesù è come se ha cambiato l'IBAN, delle coordinate bancarie alle quali sarebbe stato dovuto essere accreditato lo stipendio di morte che era riservato per me e per te. Lui ha cambiato quell'IBAN. Non è più arrivato a me e a te. Quello stipendio di morte, e ha sostituito con le sue coordinate bancarie l'accredito di quella morte. E ha dato a me e a te, ci ha accreditato la giustifica per la vita eterna. E ci ha liberato da questa condizione di condanna che noi avevamo. Questo significa Natale. E io lo so che festeggiamo che Gesù è nato, ma Gesù è nato con questa missione. Gesù è nato per accreditarsi la morte che era accreditata a me e a te. Questo significa, punto numero uno che abbiamo visto quest'anno su come diventare come te, rinascere alla nuova natura di Cristo. Questo significa rinascere alla nuova natura di Cristo, perché la nostra rinascita prevede che alla luce della sua sostituzione sulla croce al nostro posto, noi muoriamo in Lui. Noi muoriamo con Cristo, noi muoriamo come Cristo, come te, per prendere la sua vittoria sulla morte, perché lui è risorto, e farla nostra questa vittoria, e risorgere con lui come lui è risorto ad una nuova vita, e siede alla destra di Dio nei luoghi celesti. Gesù lo spiega in una maniera un po' più semplice per noi da capire, e mi piace che Matteo, Marco e Luca, nel caso in cui ci sfuggisse in Matteo, Marco ha detto, mo glielo dico pure io. Nel caso in cui ci sfugge in Marco, Luca ha detto, mo glielo dico pure io. Poi Giovanni ha detto, vabbè, l'hanno ascoltato 3 volte, basterà, ci basterà. Che ne pensate? E lo leggiamo, Matteo 9,16, che significa rinascere alla nuova, rinascere come nuove creature in Cristo, che nessuno mette un pezzo di stoffa sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore. Marco 2,21 dice così, nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Luca ce lo ripete, nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Sapete perché possiamo rischiare di allontanarci dalla fede che abbiamo incontrato? Perché non vogliamo buttare via quel vestito vecchio, perché siamo troppo affezionati. Ci piace. Ed è incredibile come, per quanto vecchio sia il vestito con il quale arriviamo a incontrare Gesù, per quanto non ci piace, per quanto è così brutto che ci ha portato a dire voglio incontrare Gesù, noi poi ce lo vogliamo tenere stretto e ci ostiniamo a riempirlo di tante toppe nuove e belle che possiamo prendere la domenica, negli incontri, in quello che ci piace, che Gesù ci dice, e ce lo rattoppiamo di toppe nuove pensando che queste toppe nuove, come un copia e incolla, possano migliorarlo e possano migliorare questo vestito vecchio. Rinascere a nuova vita significa buttare via il vestito vecchio che non può migliorare se lo rattoppi. Non può migliorare. Devi indossare un vestito nuovo. Rinascere in Cristo significa che sei stato crocifisso con Cristo e non sei più tu che vivi, ma questa vita che ora vivi nella carne, la vivi nella fede del Figlio di Dio che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Esamina, mio Dio, conosci il mio cuore, guarda, mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, vedi questa via iniqua, questo vestito vecchio, che cosa, perché lo voglio così tanto tenere ancora? Nonostante mi fa soffrire, io voglio stare là, in quel vestito comodo, perché se è tutto caldo. Sai quando ti svegli la mattina col pigiama, dalle coperte, che caldo. Oh. Ma non puoi andare a lavorare con quel vestito caldo. Ti devi mettere un vestito fresco, nuovo, profumato, pulito. Forse devi anche lavarti, perché hai sudato sotto il piumone. Non vivere nella paura di sentirti dire da parte dello Spirito Santo che questa via iniqua che può trovare dentro di te non va bene. Piuttosto vivi nel suo timore. Vivi nel timore perché Cristo, attraverso la sua grazia e l'opera dello Spirito Santo, può rompere ogni via iniqua, può darti la forza di buttare quel vestito vecchio e darti la libertà di permetterti di rinascere ad una nuova vita e indossare un vestito nuovo. Io prego davvero che in queste settimane, se non l'abbiamo ancora maturato, che tu possa maturare quella consapevolezza di dire quando vai davanti a Dio, io non ho paura di perdere la mia vita. Di dire, Signore, io non ho paura di perdere la mia vita, io voglio essere come te. Io, piuttosto di avere paura di perdere la mia vita, ho timore di diventare come te. Ho quel timore, ho quel desiderio, ho quel timore di scoprire la verità la verità su di me, la verità su quello che tu hai preparato per me, piuttosto che continuare a vivere in quella bugia che non mi porterà da nessuna parte e nella quale io ho creduto fino ad ora. Io prego che questo 2025, lo dichiaro, possa essere questo per te. Possa averti portato ad oggi a dire questa parola di te. Me lo sono messo NB negli appunti, in grassetto, maiuscoletto, sottolineato più spesso. Verde fluo l'ho messo. Non c'è un margine di miglioramento. C'è un margine di salvezza. Cristo non è venuto per migliorare la tua condizione di peccato. La tua condizione di peccato è uguale morte. Il tuo vestito vecchio è uguale morte. Cristo è venuto per salvarti. Cristo è venuto per salvarmi. Non c'è toppa che tenga. E se pensi di migliorare, perderai. E lo strappo si farà più grande, si farà peggiore, hanno scritto nel Vangelo. Sei stato salvato perché chiunque perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. E noi siamo stati salvati perché morendo in Cristo possiamo rinascere ed essere salvi ad una nuova vita. Punto numero 2, per essere come te, rompere con il passato. Punto numero 1 è stato rinascere alla nuova, come una nuova creatura in Cristo. Punto numero 2, rompere con il passato. E come si fa a rompere con il passato? Sicuramente iniziando a buttare il vestito vecchio, che è parte del passato. Ecco perché è il punto numero 1. I Vangeli continuano, sempre Marco, Matteo e Luca, perché noi siamo un po' duri e quindi così come non vogliamo buttare quel vestito vecchio, perché pensiamo che Gesù lo dobbiamo aggiungere a qualcosa che noi già siamo, piuttosto che morire e prendere quello che lui vuole che noi siamo davvero, non vogliamo neanche rompere con il passato, perché non ci piace. Per quanto il passato è stato a volte doloroso e brutto, ci piace, è vero, un po', piangerci addosso. È onesto, a me mi piace un po' piangermi addosso. Quando mi sento piccolo, brutto e nero come Calimero. Perché sai? E lo leggiamo, Matteo, Marco e Luca. Rompere con il passato, come si fa? Neppure si mette, Matteo 9, vino nuovo in otri vecchi. Altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si sperdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano. Nessuno, dice Marco, mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Luca, nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e si spande e gli otri vanno perduti, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Che cos'è un otre? Un otre è un contenitore fatto di pelle animale, una sacca. In genere si usava una pelle di capra, morbida ed elastica, perché quando mettevi questo liquido come il vino, che era un liquido che fermentava, la potevi trasportare in giro quando andavi nei viaggi che facevi. Un otre vecchio è quell'otre che ha subito il processo di fermentazione del vino all'interno, che ha esercitato pressione durante la sua fermentazione e espandendosi ha indurito la pelle. Quella pelle che era elastica, quella pelle che era morbida, è stata tesa, perché il vino è fermentato e fermentando quella pelle si è indurita e quando inizia a indurirsi inizia a screpolarsi e inizia a rompersi. Per cui capite bene che in un otre vecchio che è stato già utilizzato per questo processo di fermentazione non può contenere un altro liquido fermentante come il vino nuovo, che ha bisogno di spazio per crescere, per fermentare, perché quella pressione che eserciterà durante la fermentazione romperà quella pelle già rigida e già screpolata. Invece un otre nuovo ha quella pelle morbida, quella pelle elastica che può espandersi senza rompersi ed è adatto a contenere un vino nuovo perché è disposto a subire la pressione esercitata durante la fermentazione del vino. Se non rompi con il passato, rimani nella rigidità della fermentazione che il peccato ha provocato dentro di te. Questa è la verità. Nel bene e nel male, la tua storia è fermentata dentro di te. E tu devi rompere con quel passato perché la tua vita e la tua storia si è irrigidita. E devi rompere con quello e Dio ti chiama a fermentare sotto l'autorità e l'azione dello Spirito Santo che dice e fa delle cose diverse da quello che il peccato che ha fermentato dentro di te ha detto e fatto fino a quando non hai incontrato Gesù. Se non rompi con il passato, lo Spirito Santo non potrà abitare a lungo dentro di te e tu scoppierai. E poi dirai, questa vita con Gesù è troppo difficile. Io mi pensavo che era facile. Mi pensavo che doveva andare tutto bene. Scoppi, perché il vino nuovo sta stretto in un odre vecchio. E il passato ha fermentato dentro di te. E fermentando ha irrigidito le tue emozioni, i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, il tuo spirito, il tuo corpo. Ha irrigidito la tua pelle. Rompi con il passato e accogli lo Spirito Santo permettendogli di fermentare dentro di te, di espandersi e di appropriarsi di ogni millimetro del tuo cuore, della tua anima, della tua mente, della tua forza, di quello che tu sei. Dai allo Spirito Santo accesso completo, accostandoti con piena fiducia al trono della grazia, senza paura del giudizio che Dio può avere verso di te, ma piuttosto con il timore del suo amore, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorso al momento opportuno e rompere con il passato. Ebrei ce lo dice al capitolo 4. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, siamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Quando tu dici a Gesù, lascialo il verso sovraimpresso, di investigarti dentro, di guardare se c'è in te qualche via iniqua, Gesù sta simpatizzando con te. Gesù vuole fartela vedere perché lui te la vuole togliere. E tu devi smetterla di giudicarti. E forse devi anche perdonarti. E qui arriviamo, ci stiamo arrivando. Punto 3. E devi accogliere perché accostiamoci dunque con piena fiducia. Con piena fiducia. Questo è vivere nel suo timore, che tu hai fiducia, che anche se vedi qualcosa di malamente, hai fiducia che Gesù è con te. Che lui se l'è fatta accreditare sopra di sé quella cosa che tu stai vedendo di iniquo, per togliertela, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. E il momento opportuno è quando tu non ti senti che lo vuoi a Gesù. Quando non ti senti che c'è quella misericordia per te. Quello è il momento opportuno dove Gesù deve arrivare. Come facciamo e come riconosciamo ad essere se siamo diventati o se stiamo vivendo come degli otri nuovi? Questa è una domanda da porci. Quando siamo figli e figlie pronti ad accogliere quella fermentazione che lo Spirito Santo vuole fare dentro di noi. Quando siamo morbidi ed elastici per poter accogliere la pressione esercitata dal processo di espansione dello Spirito Santo dentro di noi. Devi essere disposto ad accogliere quel processo di espansione Ora, la pelle che è morbida ed elastica, quando si viene tesa. E quello provoca della sofferenza. Quando lo Spirito Santo vuole espandersi dentro di te, quella è una sofferenza, ma quella è una sofferenza gloriosa che ti porterà a vivere gloria. Come possiamo permettere a questo processo di compiersi nella nostra vita? Punto numero 3, relazionandoci a Cristo ogni giorno. Relazionandoci a Cristo ogni giorno. Quando noi ogni giorno ci relazioniamo a Cristo, questo prevede che lo Spirito Santo ci convince. Giovanni, Gesù lo dice al capitolo 16, parla ai discepoli e dice: quando sarà venuto lo Spirito Santo, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Quando noi viviamo e ricerchiamo la presenza di Dio relazionandoci a Cristo Gesù ogni giorno, noi permettiamo allo Spirito Santo di convincerci quanto al peccato, che è la nostra verità, è la mia e la tua verità, che tutti siamo peccatori e siamo privi della gloria di Dio. Ma il peccato non è solamente commettere quegli atti morali che ci portano ad avere una vita dissoluta. Il peccato non è solamente non rispettare i comandamenti di Dio, perché altrimenti il giovane ricco, che li rispettava tutti, non avrebbe avuto la risposta che ha avuto da Gesù. I farisei, che 350 leggi stavano, le rispettavano tutte, Gesù non gli avrebbe detto quello che gli ha detto. Se fosse solo questo, essere convinti quanto al peccato. Ma il peccato è soprattutto quell'atteggiamento fondamentale di egocentrismo, di autonomia e di indipendenza che ci porta al rifiuto di credere in Gesù. Questa è la verità. Quando tu sai che hai letto sopra la Bibbia quello che devi fare e poi non ti piace, non ti ha convinto, e tu lo sai meglio, qual è un peccato? Perché tu stai dicendo, come Adamo ed Eva hanno detto, noi non ci fidiamo di te, che possiamo avere tutto e dobbiamo stare con te per capire ciò che è bene e ciò che è male. Noi dobbiamo mangiare da quell'albero perché noi dobbiamo capire ciò che è bene e ciò che è male. E l'abbiamo capito secondo voi? Il mondo sa ciò che è bene e ciò che è male? Io penso proprio di no. E questo è il peccato. E lo Spirito Santo non è stato solo mandato per informarci che siamo tutti peccatori e privi della gloria di Dio. Ciao, saluti e baci. È stato mandato per convincerci e trasformare il nostro status da peccatori a eredi di Dio e coeredi di Cristo. Per questo ti deve convincere. Per questo deve guardare la via iniqua dentro di te. Per questo non devi avere paura, ma devi avere timore, che lui ti convinca. Perché Romani 8, sempre agli italiani scrive queste cose Paolo, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con lui per essere anche glorificati con lui. Soffriamo con lui per essere glorificati con lui. Quando ci relazioniamo a Cristo ogni giorno e permettiamo allo Spirito Santo di convincerci, lui ci convince in quanto alla giustizia. E questa è la verità di Dio. Lui è santo, lui è giusto e solo lui lo è. E noi non lo siamo, ma lui lo è. E lo Spirito Santo non solo ci mostra quando Gesù risorge e lui scende e Gesù è seduto alla destra del trono di Dio, non solo ci mostra la sua giustizia. Sapete, la sua giustizia era prendersi il tuo peccato, non vendicarti, prendere il tuo peccato. Ma non solo lo Spirito Santo vuole rivelarci questo, vuole convincerci della sua giustizia, E sapete, la sua giustizia è molto, molto, molto, molto diversa dalla tua giustizia e dalla mia giustizia. E dalla giustizia che il mondo intorno a noi ci insegna ad avere. Perché la sua giustizia ha previsto che ti doveva perdonare. La sua giustizia prevede il perdono. E tu? Che pensi di questa parolina? È lì che lo Spirito Santo deve espandersi. È lì che tu sei rigido perché hai ragione. E tante volte perdonare delle persone che ci hanno fatto del male è una sofferenza. E risoffriamo la sofferenza che abbiamo provato. Ma devi essere morbido, devi essere elastico. Perché il provarla di nuovo sarà una liberazione, perché li avrai lasciati andare. E quella pelle sarà morbida e non sarà rigida, non sarà screpolata, non avrà le crepe, che come qualcuno ti dice, esplode. Questo è convincerti in quanto alla giustizia. E lo Spirito Santo vuole convincerti in quanto al giudizio, e cioè che il principe di questo mondo è stato giudicato in Cristo, e per la giustizia di Cristo che ci ha perdonati, noi abbiamo ricevuto misericordia e siamo stati graziati nel vero senso della parola. Siamo stati graziati. Sapete, c'è un teologo che commenta questo verso di Giovanni 16 così, dicendo: il mondo con il suo principe è stato giudicato. Aderire ad esso, anziché a Cristo, significa aggrapparsi ad una causa votata al fallimento, una nave che affonda. A chi ti stai aggrappando? A chi ti stai aggrappando? Non scegliere di aggrapparti ai valori, al potere e all'andazzo di questo mondo. Non scegliere questo. Aggrappati a Cristo. Aggrappati a Lui, perché aggrapparti a qualcosa che è stato spiritualmente sconfitto e condannato, come il principe di questo mondo, ti porterà a perdere. Piuttosto, permetti allo Spirito Santo di convincerti di aggrapparti a Cristo. Aggrappati al giudizio che Cristo ha, perché nel suo giudizio Lui ha giudicato il principe di questo mondo e tu sei stato risparmiato. Nelle scelte che fai, nelle scelte della tua famiglia, nelle scelte sul tuo posto di lavoro, nelle scelte nei confronti delle relazioni, non basarti sul tuo giudizio, non basarti sul giudizio degli altri, non basarti sull'andazzo di quello che accade intorno, perché tutti lo fanno, lo fai anche tu. Basati sul giudizio di Dio, perché l'andazzo del mondo con il suo principe è stato giudicato e ha perso. La fine della storia è che ha perso. E Gesù ci ama così tanto che vuole relazionarsi con noi ogni giorno e ci vuole convincere del suo giudizio. Esaminami, oh Dio, esaminami, conosci il mio cuore, Signore. Guarda, da cosa mi sto facendo confondere? Mettimi alla prova, prova. Io mi affido al tuo giudizio, mi aggrappo a te o no? Conosci i miei pensieri, guarda cosa c'è di iniquo dentro di me. Guidami per la via eterna. E funziona così quando lo Spirito Santo ti convince, che prima ti convince, poi scopre la ferita, ti mette a nudo e poi ti consola, perché Lui è il consolatore. Ti consola come tu non sei mai riuscito a consolarti. Ti consola come mai nessuno potrà mai consolarti. E applica in quella consolazione che ti dà la sua medicina curativa. E ti rende e ti ricopre come nuovo. Ti fa rinascere ad una nuova vita. Delle nuove creature, con un nuovo vestito, degli otri nuovi, per una nuova vita. Se tutto questo non è, punto numero 4, riconoscere la bontà di Dio verso di noi, io non lo so che cosa è. Io non lo so se tutto questo non ci fa comprendere e riconoscere quanto Dio sia buono verso di noi. Io non so cosa potrà farlo. Come stai riconoscendo la bontà di Dio verso di te? La stai riconoscendo? Dopo tutto questo anno, la stai riconoscendo? Perché la bontà è oggettiva. Il punto è riconoscerla. Per me. Tu riconoscerla per te. Quali strumenti stai usando per riconoscerla? Stai usando i giusti strumenti di misurazione? Con quale unità di misura la stai misurando, questa bontà, per riconoscerla? Se tu sei andato dal dietologo e ti ha dato 50 grammi di pasta da mangiare e tu con la bilancia hai la taratura di decilitri, puoi misurare quanti decilitri vuoi, ma non stai misurando i grammi che lui ti ha dato. Capite? L'unità di misura con la quale misurare. A volte le mie figlie sono state malate a casa e c'erano i nonni. E sapete che ora ci sono quei termometri digitali, no? Che a seconda di come schiacci, siccome siamo diventati globali, c'hanno pure i gradi Fahrenheit. Quindi a volte, diciamo, a seconda di come spingevano, o i miei genitori o i miei suoceri, uscivano Fahrenheit 93. Mia suocera, 93. Che sta succedendo? È un'unità di misura sbagliata. E l'unità di misura sbagliata ti fa allarmare per cose per cui non devi allarmarti. E non ti fa riconoscere la verità di quello che stai vivendo e di quanto Dio è buono con te. Siamo semplicemente noi, con la nostra vita rotta, davanti alla grandezza, alla maestà e alla santità della bontà del Creatore, del cielo e della terra e dell'intero universo. Siamo davanti alla bontà della sua presenza nella nostra vita. Noi che non siamo altro che polvere, eppure lui ha soffiato, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo hanno soffiato un alito di vita che ci ha resi a loro immagine e somiglianza come te. E noi ce lo perdiamo con uno schiocco di dita. Ma io dichiaro che alla luce di tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno, tu ne abbia fatto tesoro. E tu abbia messo un fondamento, un punto, e abbia girato una pagina e sei pronto per questo 2026 a scrivere quello che Gesù vorrà scrivere attraverso di te, sapendo che sei come Lui. Sapete, oggi abbiamo la cena del Signore. E la cena del Signore è qualcosa che Gesù ci ha lasciato per ricordarci non solo del suo sacrificio e del valore che ha, ma per ricordarci che lui sarebbe ritornato. E ha detto ai suoi discepoli, a tutti quelli che sono arrivati dopo di loro, cioè noi, fate questo in memoria di me, aspettando la mia venuta. E questa sera noi vivremo la cena del Signore. E come Chiesa noi scegliamo che chiunque, per la responsabilità con la quale viviamo questo momento, che chiunque abbia scelto di battezzarsi da adulto, che abbia scelto di morire a Cristo, immergendosi nell'acqua e risorgere da quell'acqua a nuova vita, possa prendere parte a questo momento di aspettativa del fatto che Gesù possa tornare. Quindi incoraggio ognuno di noi che è battezzato a partecipare alla cena del Signore. E se tu non sei stato ancora battezzato da adulto, prenditi questo tempo che avremo per riflettere, per arrenderti. Se hai bisogno di preghiera, io sarò qui davanti, possiamo pregare insieme, sono felice di poterlo fare, ma prendi questo tempo per arrivare anche tu a dire: io voglio dichiarare al mondo che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi vorrei che ci potessimo alzare in piedi. E in attesa del fatto che Gesù ritorni, io prego che noi questa mattina possiamo vivere la cena del Signore dichiarando la verità sua sulla nostra vita, dichiarando quello che Lui ha decretato per noi, rompendo con il passato, buttando quel vestito vecchio, scegliendo di essere convinti da parte sua, che tu gli dici: Signore, convincimi, perché sono una testa dura, sono un testone. Sapete, mia nonna, dopo un po' che venivo in chiesa, ha detto: quelli ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Ero solo che lo Spirito Santo mi aveva convinto, finalmente. E io gli ho detto: nonna, l'acqua era così nera quando usciva da questo lavaggio che tu non hai idea. Falla uscire quell'acqua. Fatti fare il lavaggio del cervello dalla parola di Dio, che è un bel lavaggio. Il lavaggio fa bene, purifica, santifica, equipaggia. Vivi questo momento della cena del Signore con questo obiettivo. E sapete, vorrei, in preparazione alla cena del Signore, pregare, ma vorrei che noi potessimo chiudere i nostri occhi e voglio leggervi un salmo. E mentre lo leggo, con i tuoi occhi chiusi, semplicemente per concentrarti non su quello che c'è intorno, ma sulla presenza di Dio qui, che vuole incontrarti adesso, che tu possa fare di queste parole che io leggo la tua dichiarazione, che possono essere le tue parole questa mattina, che tu dichiari su di te, come Davide le ha dichiarate su di sé, per andare davanti a quella cena, per andare davanti a quella tavola, per prendere parte a quel sacrificio che Cristo ha fatto per te. Chiudiamo i nostri occhi. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo segreto della sua dimora e mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano, e io offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò, salmeggerò al Signore. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cerca il mio volto. E io cerco il tuo volto, Signore. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Perché qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. O Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto, non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni e gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto la fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi, se non avessi avuto la fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi, spera nel Signore. Aspetta il Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore. Signore Gesù, vogliamo aspettare te, nello sperare vogliamo aspettare te, e questa mattina vogliamo benedire quel pane e quel vino che simboleggiano che tu hai preso il nostro posto, e noi vogliamo ricordarcelo questa mattina, vogliamo riconsacrarci a te per essere come te. E come te, che hai dato tutto, questa mattina noi vogliamo dare tutto di noi a te. Nel prendere quel pane e nel prendere quel vino, vogliamo ridarti tutto, Signore Gesù, come la prima volta. Vogliamo riamarti come il primo giorno, quando eravamo disperati e non c'era soluzione davanti a noi se non il tuo amore. Questa mattina vogliamo riafferrarlo e vogliamo arrenderci a te. Per questo ci veniamo davanti a te, Signore Gesù, arresi e desiderosi di ricevere quella parola che tu hai per noi. nel tuo nome. Amen.